Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. 120 km, ecco la gettata media di un moderno veicolo elettrico del tipo di quelli che usciranno presto sul mercato. Indubbiamente sufficienti per un uso cittadino, ma certamente non abbastanza per aspirare a sostituire anche, come dire, nel cuore dei guidatori la mobilità tradizionale. Insomma, è questo il limite di fondo della mobilità elettrica, ne abbiamo parlato molte volte. Ed ecco perché in tutto il mondo si studiano nuove batterie capaci di accumulare a parità di peso e di ingombro sempre più energia. Ecco qui il fattore chiave, il rapporto tra il peso e l'energia accumulata. Infatti, se per aumentare l'autonomia dovete aumentare troppo il peso del veicolo aggiungendo quintali di batterie, il risultato è che l'autonomia in realtà non aumenta o non aumenta poi molto, perché aumenta moltissimo l'energia che voi dovete usare per portarvi dietro tutte queste batterie. Ora, un annuncio molto incoraggiante è arrivato circa un anno fa dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Chimica dell'Università della Sapienza, gruppo di ricerca guidato dal professor Bruno Scrosati, con un articolo che è stato pubblicato su un'importante rivista del settore, parliamo del marzo 2010, in cui si annunciava una nuova batteria a base di litio zolfo, tre volte più performante di una moderna batteria al litio del tipo che utilizziamo nei cellulari e che di fatto rappresenta il top della tecnologia attualmente disponibile. Cerchiamo allora di capire com'è andata a finire. Diamo il benvenuto al professor Bruno Scrosati. Buonasera Scrosati. Buonasera a voi. Allora Scrosati, cominciamo a dare un ancora alla discussione. Quanta energia contiene un litro di benzina, un chilogrammo anzi di benzina, e quanto invece una moderna batteria al litio? Ecco, allora qui ci sono varie ipotesi. Comunque il dato più accreditato è che un litro di benzina contiene circa 11.000 wattora, un chilo di benzina, sì, più o meno, diciamo la densità uguale a 1. Mentre invece le attuali batterie al litio di tecnologia disponibile sono solo circa 150, quindi c'è un fattore di 10 di differenza. Sì, anche quasi 100, insomma. Insomma, siamo lontanissimi, ma noi dobbiamo arrivare alle performance della benzina per avere questi veicoli elettrici? No, non è necessario, perché è importante per assicurare uno sviluppo di questa auto elettrica che il consumatore non debba perdere troppo tempo, diciamo così, per ricaricare la sua auto, perché al momento la ricarica di un'auto si fa in pochi minuti. Se l'auto diventa elettrica, questa ricarica diventa, nelle migliori delle ipotesi, mezz'ora o un'ora. Quindi bisogna assicurare un'auto che perlomeno faccia un 200-250 km con una carica singola. Cosa vuol dire? Che l'utente esce la mattina, fa i suoi giri, poi torna a casa la sera e la ricarica nel garage. Insomma, lei dice che raddoppiando di fatto la gittata di questi veicoli, raddoppiandola, triplicandola, tutto sommato questi veicoli potrebbero sostituire quelli tradizionali. Sì. E sarebbe quello che promette la vostra tecnologia, sì, giusto? Sì. Senta, quali sono le principali innovazioni che avete introdotto in questa tecnologia litio-zolfo? Provi così, insomma, a darci un'idea. Guardi, questo sistema litio-zolfo in realtà non è che non fosse noto in precedenza, però finora non aveva avuto uno sviluppo perché c'erano dei problemi di materiali e quindi il nostro sviluppo è stato quello di identificare i materiali più adatti a portarne uno sviluppo positivo. Più che altro ricorrendo a nanotecnologie, sì, cioè a materiali molto piccoli, e a strutture polimeriche, cioè invece che liquidi usare delle membrane. Ecco, questa scelta dei materiali polimerici ha uno scopo ben preciso, vero? Di rendere la batteria, come dire, più usufruibile. Sì, perché si tratta di membrane polimeriche, come le plastiche normali, che sostituendo invece l'elettrolita liquido convenzionale assicurano una prestazione della batteria prima non ottenibile. È anche più sicura la batteria in questo modo, non ci sono liquidi che possono andare in giro, eccetera, eccetera. Certamente, certamente. Ecco, a che punto siamo dello sviluppo? Siamo insomma ad una ricerca di laboratorio o si potrebbe partire con l'industrializzazione? Guardi, questo è, diciamo, tutte le scoperte a livello universitario hanno poi una possibilità di sviluppo. Naturalmente il passaggio da risultati di laboratorio a quelli industriali richiede uno sviluppo per gradi, prima certo, passare a uno sviluppo prototipale e poi a uno industriale. A questo punto siamo allo sviluppo prototipale, allo sviluppo industriale o ancora prima? No, non siamo a nessuno di questi. D'accordo. Perché finora non abbiamo avuto nessuna industria che ha dimostrato un interesse specifico in questo settore, a parte alcune nel settore asiatico. Insomma, voi avete avuto delle proposte da parte di industrie asiatiche per sviluppare industrialmente queste batterie? Proposte concrete. Mi sta dicendo che non le sono arrivate dall'Italia o forse neanche dall'Europa, però? Dall'Italia sicuramente no. Dall'Europa adesso ci sarà qualche industria tedesca che potrebbe essere interessata, ma siamo ancora a livello di contatti. Va bene, insomma, lanciamo l'appello, insomma, fatevi sotto industrie italiane, perché come al solito l'idea buona nel paese c'è e poi però spesso la si lascia sfruttare ad altri. Grazie Scrosati. Grazie a voi, buonasera. Per stasera ci fermiamo qui, domani Mr. Kilowatt torna, cercheremo di capire che fine fanno le lampadine ad alta efficienza, una volta esaurito il loro ciclo di vita. Buona serata a tutti.